trasmissione sul canale 10, c'è qualcuno? Hola? Attenzione 10, c'è qualcuno? Hola, attenzione 10. Bravo. Allora, Blecco Blecco, c'è qualcuno in ascolto? Gianni Lucchio Rumici, sì. Chi è? Qua è San Pino Socio. Beh, San Pino. Dove si è posto il gas? Sì, questo è l'altro che avevo preso. Praticamente funziona questo, più visto che Guido che aveva ubriaco, che ha detto che funzionava. E lui lo stava dando per pezzi, molto l'hai pagato questo. Questo, quanto è quello là? 200 euro l'ha giù pagato. Vabbè, per 200 euro deve funzionare, per forza. Sì, HK, no, l'altro ha detto che ci vogliono i potenziometri. L'ho chiesto a Google GPT, mi ha detto che ci vogliono i potenziometri, vogliono BK10. E niente, li ho trovati su AliExpress e li ho comprati. Ho comprato i potenziometri e i fusibili di vetro che ci vanno dietro. Ah, e beh, allora lo ripari questo. E se dice ci vogliono quei due potenziometri, magari li rimette e funziona. E niente, se funziona ne ho uno 5 bande e quello che sto usando adesso è 6 bande. Quello lì, ieri cosa aveva il microfono? Che cosa già? Ieri il microfono si è uscito più basso, cosa c'aveva il microfono? La batteria? Praticamente si spostava la batteria, c'erano le vitine del tappo sotto lente, ho messo due vitine nuove e niente, pare che funzionava. Ma no, adesso va bene. E ieri di colpo ti si è abbassato il radio, ho detto che è strano. Ma infatti me l'hanno detto anche gli altri, ma non riuscivo a capire perché la batteria mi sembrava che era buona. Invece niente, l'ho girato, l'ho guardato, c'erano due vitine del tappo lente, quindi ho tolto quelle due vitine e ho visto che dentro c'era una schedina lunga, c'era. Ed erano lente anche quelle due vitine, le ho strette, ho messo le vitine nuove fuori, ma com'è qui la vivono, cose, un barattolino. E sembra che vada bene. Tutto bene ciò che finisce bene. Adesso ne hai due. Tutto male che vada, te lo usi per i pezzi del ricambio, quello lì, se si faccia dei chili, a così come si va. E infatti, no, ma Giappino ha detto che c'ha i finali originali, quello là è tutto, l'ha controllato, l'ha pulito, ha detto che ci vogliono solo il potenziometro del RFIN e il potenziometro dello Squatch. E già me l'avete capito, sì sì. Vabbè, se ti arrivano la cosa. E allora così dirà tu in AM e uno in FM. E ma devi avere due antenne. Ce li ho due antenne, c'ho quella lunga e quella corta tipo bastone. Attacco una che sa bastone e magari o se no compro un commutatore d'antenna. Vabbè. Col commutatore tu commuti da un all'altro di apparecchio, non è che commuti la frequenza. Comunque già va bene, eh. In un modo o nell'altro già lo sfrutto. Sì, agappa. Adesso sto facendo normale, mi. A parte nello lineare a vedere come funziona con lineare. A vedere come ti arrivo dopo. Però adesso sei 9. E quindi va bene, anche sta funzionando normale. L'unica cosa è che ho dovuto regolare dove c'è scritto fine corse, mi. Perché se lo metto a tipo normale, con la frequenza giusta sua, e la voce la sento tipo grossa, rauca, invece allora la sono appena appena indietro di uno o di due e la voce si fa bella. Allora guarda così. Vabbè. Quello lì è una pesceria, dai, è una pesceria, è un po' di frequenza, ma basta gli anni. E infatti mi ha dato a attaccare un bit a vedere se funziona. Prova. Ah, si sente il bit. Cavolo. Prova a mettere l'eco. E vieni, è così, ecco. Ciao. Si sente. Quindi va bene, no? Sì, funziona tanto. Guarda, adesso c'è lui, io leggo, così stai uscendo, guarda. 1, 2, 3, prova, cambio. K, 1, 2, 3, prova, cambio. Che bellino, mettiamo la musica un po'. Allora va bene così, Annave, sono contento. E poi, più casi mi pare, più ben funziona sta radio. Magari la ferma tanto tempo e c'è condensatori che sono un po' scarichi. Magari adesso come la usi, ma meglio. Eia, ma quello che me l'ha venuto ha detto che funzionava e che ce l'aveva ferma. E l'ho presa dalla Spagna mi stesso, da Wallapop. E arrivata da Sant'Andrea de Besos, un luogo del genere. Tutti gli spagnoli stanno mandando il sacco. E un bel di cose c'è su quello Wallapop. E il problema è che questa radio pesava a me, ho pagato 22 euro di spedizione. E gli ho fatto l'offerta di 180 euro. E va bene. E però il sito mi sembra che ci ha preso 11 euro per l'assicurazione, diciamo. Com'è che si chiama questo sito, che non sono mai andato? WL Wallapop. Wallapop. E già vado a vederlo, là. È tipo subito it, però è Wallapop. E magari che ci vuoi in televisione qualche volta la pubblicità. Ed è internazionale come sì. Eia. Poi c'è scritto no, se è scritto una spedizione o no, oppure è di persona. No, c'è capito. E niente, scatta e per un freddo a usi lo vira la neve, vira chiamare. E dipende sempre chi se va nel rischio e freddo. Cioè io sono dentro casa e no, che tutto quanto atteso a Nelly, c'è sempre un po' di tepore freddo, Non è umido anche il verso che è asciutto, però cavolo, ieri notte me ne ha così in terra di 4:20 o i 4:30 me ne ha così in terra. Ma io un gaffo, la recce ghiacciati e in mezzo fa lì in mezzo un buonanotte. No, ma non mi butti, io ho una coperta di quelle paio di case che ti scaldano un bel. Mi bambusotti, non è fatico di freddo io. Vabbè, io ho anche un riscaldamento a casa. Eia, no, ma io ho, come si dice, della Imetec, il sugoso scaldassonno, e metto quello e dormo bene, però dopo tipo un'ora, perché lo puoi mettere un'ora, 3 ore e via dicendo. Però che la poi quando si chiuda, chi si infredda, chi è la temperatura umida, manganini, me ne butta in terra. Perché una volta che raggiunge la temperatura, no, e anche il condizionatore, che sto bene, alla fine il condizionatore lo spengo perché sennò mi appunto meglio e non è droga. E poi come si abbassano le temperature a macchina presto me ne butta in terra, perché con il mio problema sono un bel sensibile, tutto lì. E niente, poi faccio subire sempre i gatti, sempre a me di subire. Sta andando bene, amico, come cosa che rimane un po' più diverso da prima. Però il problema è che quando io mi seguo che rimango un po' contratto, ma la si drena sempre un po'. Magari anche per il tuo problema che non riesce a guarire. E allora il problema è dalla schiena, perché rimangono i nervi sempre in tira e da quell'impianto dei bulloncini e dei ferretti e vega che cosa viene qua. Perché sennò era stato già guarito io. chi sei infermiera, ma il tuo no, sembra che vada meglio, ma a chi te la so che va meglio, io la metto con compagni tutti io, a chi che non mi mandano niente, la chi tu barirà per fare cosa, sta cosa. Ma non ci possiamo fare niente, io già lo so. Però ho detto, io non è che posso stare, no, per 20 anni, aspettare anche a voi che venite tutti qua un'ora, a rivedere, da voi venite a mezzodì, venite alla una, e ho detto, io mi sono stressato quando voi vedete che figlio chi è. Lo so, ma noi dobbiamo fare il giro così. Va bene, va, anche voi avete ragione, cosa vuoi da dire? A chi fare così, magari sei tranquillo. Cazzo, vai in bagno, a pisciare, a fa. Cazzo, ti ne arrivi chiede, non sai più cosa cazzo fa. Sì, sì, ti capisco. Vabbè. Purtroppo loro vengono quando li mandano. Se non avesse un orario stabilito, che avvengono per dire dalle 11 a mezzogiorno, tu sai che in quell'arco di tempo possono venire. Infatti stamattina erano tipo le 10 e mezza, mi stavo lavando il piede, cioè per poi asciugarlo bene, no? Lì prende la ETA, a rimane invece ne giunta che la quasi era una, che se va più bene che la calligiene d'ora. Infatti mi stavo per sdraiare e gli ho detto, ma tu lo so, scusami, ma prima c'era una signora qui, lì, là. Ha detto, no, ha detto, non lo so, ha detto, però, ha detto, io sto male quando devo stare così, aspettando a vuoto, mi viene nei due mesi ansia, ha detto, tocca mangiarmi canti zitti, fumarmi tutto il giardino del vicino e poi tocca fare, ha detto, come per i gnomi. Ma da dove rimangono questi? Dalla sede? Da Adi, si chiama Adi perché vengono a farmi il prelievo, no? Per quando devo andare a fare la... Ah, ma il prelievo non più! Quindi vengono anche a medicarmi il piede perché hanno anche quel compito. Però mi divorzio... Aspetta. Cioè, sono invidiati perché se non mi mandano medicine, non c'ho guardie, non c'ho quelle, non c'ho quello. E mamma magari io la stessa lì a comprarmela e arrivi e quindi cosa facciamo? E cosa facciamo? Mi misuri la pressione e sta qui. Cosa ti posso dire? Vabbè, avanti chi vuole entrare. Ciao Gian. Ciao Carlo, buonasera. Chi era l'altro? Dove finire? Dove finire? Ciao Lucrezia. Ciao Carlo, ciao Lucrezia. Carlo no. Ciao Carlo. Ciao Giannannini. Ecco una cattura di scendere. Cosa sei in abito? Perché in abito? Aspetta, giù su Facebook, giacchetta, cosa? Su Facebook in giacchetta? Sì, con la tessera attaccata, ti riconosci me. Sì, sono nel 2024 con la foto, nel 2024. Questa scena ha portato la sua cena. Ha fatto 40 anni dove sto lavorando di attività e sto facendo la cena da Cilia. No, pensavo che avessi beccato qualche bel lavoro, dai, io mi auguravo quello. Voi? Non so chi sia, quello passo basso, forse chi è? Da Sorso, boh? Ehi, è Gianni da Sorso, San P. Ma arriva basso, non so come mi ascolta lui, ma qua arriva bassissimo. Qua arriva 9, 9 di segnale e 5 di radio. Già, tu mi hai di fronte. Avanti Carlo. Mi senti Carlo tu, sì? Quando scala Luca, come sempre. E io come sto uscendo perché ho cambiato antenna. E il segnale è più o meno come prima, forse un po' più bassi, ma leggermente più basso, 9,25 invece che 9,30. E la radio è buona lo stesso. Sì, sì, ma sto uscendo con meno watt perché ho le stazionarie un po' alte, stavo provando a farle scendere, ma con questa antenna è un casino. Non si riesce. Ma non ha gli stub sopra? No, no, no, negativo. Vabbè. Adesso manco chi ci vede le antenne ci abbiamo, tranne cosa, tranne Fusaro qui. Non ce ne sono altri. Gianni, guarda adesso che sto uscendo al massimo. È quello che c'è vicino alla salendo al quadrato, non c'è sempre di fronte al distributore. È morto. AGBC. E quindi vero figlio? parlano, non so, figlio, io non ho mai visto nessuno, cioè ci ho visto il commesso un periodo, poi non ho più visto. Boh, allora non lo so. Zampì, mi senti a me? Zampì, non senti? No, non lo sento, a cosa sentivo poco fa? Adesso c'ho il coso attaccato lineare, come arrivo adesso? Zampì, adesso ti ascolto, non so se mi ascolti bene, anche a me, boh. Quasi 9.30, Zampì. Già l'ascolto a coccare per il Vella, tu sì? Sì, Sandrino, sono per te. Bella Zuccio, oggi tu mi nomini, gira la mano bella per il Vella. Cappa, cappa. Vabbè. E allora, Carlo, ci ha perso la mattina per niente. Non tutta la mattina, ma avevo un altro caso. E siccome ci sono diverse misure, ho provato la seconda nuda, mi dava addirittura 6 di SVR e ho tolto tutto, ho rimesso l'altro cavo, scende a 2 qualcosa, capito, e 2.5 pure, a seconda del canale, però sono alti. Se provo ad accorciarlo riaumenta, se provo ad allungarlo riaumenta e quindi non so cosa fare. Allora io capo non ne ho mai tagliato in vita mia, tagliamo solo l'antenna, quando praticamente le stazionarie erano troppo alte, a piccoli tendi, proprio a pezzettini piccoli piccoli, con la terraglia e col martello li tagliavo il pezzo, sino a quando scendeva uno e uno, e ho sempre fatto così. Poi devi stare molto attento, devi togliere i pezzi grossi, perché se no ti salgono troppo e poi non riesci più a regolare. Sì, questa però è una di quelle antenne tipo, capito, da balcone, non hanno taratura, praticamente la taratura la fai col cavo e può essere da 2,73, da 5,46, da 8,48, da 12,34, da 17,98, ci sono tutte le misure, fatto da 8,48 e mi dà 2,5, fatto da 12,34 e mi sale a 6. Adesso io non so se la devo allontanare dalla ringhiera e quindi fare quell'altra prova, però la farò domani. Caro, è quello, perché anche io quando avevo la boomerang non riuscivo mai a regolarle bene, minimo che scendevano erano, massimo che scendevano erano 2, poi non riuscivo a abbassarla di più perché era vicino al muro e non aveva, diciamo, lo spazio per passare le onde, proprio si sbattevano al muro, ma è normale. Avanti, Luca. Aspetta, mi sto cambiando già, che sono vengono a prenderli. Cosa? Io cosa sei bene, Luca? Cambiando, ha detto che tra un po' devono passare a prenderlo. Ah, ok. Io Sampì lo sento adesso, basso, ma già lo sento, ma lui non credo che mi senta. Quanto ti arrivo, Luca? Bene, ascolti adesso. Ieri notte sono andato a vedere quello spettacolo che hanno fatto in via di Martino, col tendone tipo il circo. E dov'era? Dove era già? Era veramente bello, erano professionisti. Io pensavo che fosse qualcosa all'acqua di rose, invece erano professionisti bravi, ragazzi veramente bravi. Mi è piaciuto molto. In via De Martino c'è praticamente all'inizio, proprio in via De Martino, all'inizio c'è un cancello, se tra l'altro c'è uno spazio grande grande, lì c'è il tendone ed è entrata libera, però poi quando uscivi dovevi dare un'offerta, capito? Sì, già va bene, bastava dare 2 euro, 5 euro, quant'è? Quante palotti in due? Ho 3 sigarette. Sale, ho detto. No, va in due. Luca, Pedivella, mi senti? Aspetta, sapete che stavo parlando a Carlo, non ci capisco nulla, se no. Aspetta che ti richiamino. Avanti, Carlo. Ho chiesto se era uno spettacolo musicale oppure roba di teatro. Era un misto, Carlo, era un misto, c'era musica, teatro e anche arte circense. Ah, buono, allora già era anche divertente. Beh, benemera, benemera. E tu, io ovviamente questa l'SQR lo sto controllando con la radio, col display della radio. Poi se ne ho voglia scendo, prendo il rosmetro e vedo un po' che misura mi dà con il rosmetro esterno, capito? Non vorrei fosse la radio, ma non credo. Parlo la radio perlomeno. Il Galaxy però da uguale al rosmetro. Non sgarra di un millesimo, niente. Uguale, proprio identico. Perlomeno, il Galaxy è così. Penso che non sia la radio, Carlo, è proprio il tipo di antenna che è un po' difficoltosa da regolare. Esatto, esatto. Adesso farò qualche altro tentativo, vedere se riesco a trovare la quadra, capito? E niente, se no rimetto quella che c'era e buonanotte per i suonatori per adesso. Ma infatti, a volte lascia la sala vecchia per la nuova, non conviene. Lo so, però sai, ho detto, anziché mettere questo stilo che il vento lo fa andare da una parte all'altra, eccetera, ho detto ne metto una che non dondola niente, e ho preso un'antenna dell'Assirio, me l'hanno regalata, si chiama Thunder, Assirio Thunder da balcone, capito? È altra neanche un metro, è scura, è tutta nera, capito? È un pezzo unico e dentro c'ha una serpentina di rame, capito? Tutta avvolta, è tutta caricata. E si potrebbe regolare variando la distanza delle file, però ti tocca aprire l'antenna, è un casino, capito? Poi magari la apri e c'entra acqua perché si dilata, capito? Quindi niente, troverò, dovrei avere un cavo più lungo giù, con quel cavo lì lo taglio a 17,98 e proviamo con quasi 20 metri a vedere se scende, e altrimenti poi rimetterò l'altra. Ecco, vabbè, ma tarra lunga, a parte già. Gaffa, forse magari c'era per il coso di Moira Orfei, perché mi sembra che c'era un anniversario anche. Può darsi che era Baghissu che veda lo spettacolo in vari punti d'Italia, là. E niente, volevo sapere come arrivavo a Pedivella, se si intende. Ci sta cambiando. Gatta, tanto il canotti siamo di frisionamento. E domani deve lavorare, Cicchi cicchi bau bau, Fenni Maccarena, tanti, mica fa bene mi. Ui, è uscito io mezzo tranquillo, guai. È uscito uno sciupa femmine come ti ho prima, e me ne si cudiano i poco femmine, anzi, io si mandava tutti i cazzi, dice, andate che io voglio stare tranquillo dalla giura, che mi piace essere libero. Andati dalla giura. E un primo. Affarravano che si vengono e noi siamo tutti ridenti. Tutta ghida, tutta l'altra, quando arriva tutto ce lo sbacciucchi, ma non mi nascete va via di tutti i cazzi. Carlo, senti, sì, ci abbiamo un lattillovere per quello. Meglio così, già lo sento, ma Luca deve essere era impegnato, aveva detto che stava cambiando, che dovevano passare a prenderlo, magari uscito. Probabilmente. Vabbè, fa bene, quando c'è da andare in giostra fa bene. Io ieri sono andato con una greffa di amici e di amiche e siamo stati bene. Era anche scaldato il freddone, io ero proprio vicino al bocchettone dell'aria calda, stava così bene. Meno male, perché insomma sta facendo freddo e anche adesso ci sono 6 gradi, mi sa, 6-5 gradi pure. Io ero dal meccanico poco fa, mi ho ritirato la macchina, mi ha cambiato il termostato e mi ha rimesso tutto il liquido del circuito di raffreddamento nuovo, perché come togli il termostato in parte si perde, capito? e quindi mi ha fatto vedere, mi ha messo un segno nel serbatoio, mi ha detto guarda, sempre così deve stare, se vedi che sta scendendo vieni e lo ricontrolliamo, ma non credo che perda perché l'ha messo nuovo, c'ha tutte le guarnizioni nuove, quindi dovrebbe essere a posto adesso. Pilevo, perché a volte, vabbè, succede anche che io una volta nel camion avevo cambiato il filtro, l'ho fatto tagliando, avevo cambiato il filtro della nafta. Poi cosa ho combinato, che tutta la nafta che mi scendeva a spruzzo e non sapevo cosa fare, Carlo, perché non potevo camminare, lasciavo tutta la strisciata, se la nafta fa scivolare, passa una moto e si ammazza. E allora cosa ho fatto? Gli ho messo un secchio sotto e praticamente solo quando lo mettevi in moto era riflettore alla cartuccia. Ho capito, a volte succede. Comunque adesso io ho fatto metà punto, ho sistemato anche questa roba qua, la macchina, i freni nuovi che li avevo fatti pochi mesi fa, dischi nuovi e partiglie. C'ho 190.500 km, quindi quasi 200.000 km. C'ha 10 anni la macchina, spero che me ne duri altri 5, così non ne devo cambiare, poi me ne andrò in pensione, mi prendo una macchinetta piccolina, nuova, e non sto lì a rompermi le scatole. Infatti, sì che tiro avanti. La mia io l'ho venduta con 350.000 km, sta ancora girando. E pensa tu, se sono macchine buone già durano. E la stessa scelta è la mia era un treno, non mi ha mai dato un problema, niente, proprio uguale, non ho cambiato la vita, non gli ho fatto pressione. Guarda, è una macchina, se sono italiani li facevo, boh, basta. Ho capito, E San Pice ancora in radio, il Latin Lover. San Pice. Gaffa, e allora vuol dire la usavi bene già, invece c'è un bel di gente che usa trattatura le macchine da cui dice, mi la pressione, mi, cazzo, un bizzoncino della pompa di Uguido, se la usi bene la macchina dura una vita, li fai tagliando, li passi di freni quando li devi fare, poi se c'è l'usura è ovvio che la frizione secondo quanti chilometri ha, ma io la frizione una volta nella mia Megane l'ho cambiata che faceva quasi 200.000 chilometri la macchina, ma era un po' strapazzata che a benzina e niente, a livello poi di ammortizzatori li ho cambiati un paio di volte perché quando uscivo che andavo tipo a Marina di Sorso, al primo pittine, alla Foce, c'entravo a tipo Golem e Cree, tutto di traverso, vendi fumo, bruciendi, gomi, è una giugusuma di boguia. Però vabbè, mi sono divertito e ce l'ho sempre quella macchina. No, io il passo in macchina così non l'ho mai fatto. Tranne, vabbè, quando ero ragazzo che una volta ho fregato le chiavi dalla borsetta a mia sorella, ero senza patente, ho preso la macchina, mi sono seduto quattro ragazze in macchina, sono sceso a Plattamona e facevo un testacco dalla rotonda, qualcosa di attirare la polizia. Si mi aveva ragazzato in Saussa e poi siamo ritornati, mia sorella è cazzata vera, dove sono le chiavi della macchina? sono così belli. Ma tu immaginati che io avevo 18 anni, ero obbligato la patente, mi avevo comprato la Megane Coupé, quella toga che rimaneva con il sedere un po' rotondo dietro, tre porte era, perché era Coupé ed era bellissimo. E poi mi avevo messo i siti di Sparco, che all'epoca erano in tutti i cantini, di scimmiati di Suvim, Vatte Furios, poi avevo il piantino serio, tranquillo, senza esagerare, Cerchillega, Marmittino, Ragazzon. Quando passavo lì vicino al quartiere tuo, mi riconoscevano i boguienti. Poi ci abitava più su, ci abitava mia zia, Montebianchino, e quindi ci salivo spesso. Capito. Vabbè. No, io più che altro le macchine facile, non è che lo truccavo, lo facevo. Ma l'impianto stereo doveva essere di quelli seri. Io ho sempre avuto impianti stereo che quando lo truccavo ritrovava e tutti li prendo. E così era mio, c'avevo lo stereo, mi avevo messo. Il primo di tutti che avevo era un Kingwood, ma all'epoca nel 96 o 97 era ne a cassette ancora. Poi quando erano usciti quelli a CD mi ero preso un Alpine con un amplificatore, cosa era l'amplificatore? Non mi ricordo se era uno Stag, mi pare che vi ha scritto. Poi avevo un subwoofer che mi avevano dato, c'era un Celestium da 40. Poi a cosa era, Gando Boni, Bobo Mali, Crazy Chapman e tutte quelle canzoni reggae. Una risa era. Se poi ti usciva alla radio gli ACDC e tipo Black and Black o la cassa la musica che è, e su Maria vinse una macchina per camminava di più da buio. E gli ACDC ci vogliamo raccorrere con la macchina. Lo facciamo anche a me. Avanti c***o. E così è. Sì, tant'è già lo sento io. Basso ma già lo sento, è anche comprensibile. Evidentemente se a te ti arriva a 9, se avessi avuto l'antenna anche io sul tetto sicuramente l'avrei, diciamo, sentito anche io con un segnale alto anche con la radio buona. Dai, speriamo che con la buona stagione che riesca a metterla sul tetto e così almeno una volta che la piazzo almeno, diciamo, faccio anche qualche collegamento lontano, dai, e riesce ad arrivare un po' al di fuori di Sassari, se no così non esco, da Sassari non mi muovo. Vabbè, ma qua mi ripeto, la verità, io ti dico la verità, io non mi accorgo di quando avevi la antenna e quando è questa qua, perché è sempre lo stesso segnale arrivo. Evidentemente favorevole la zona qua, capito? Dalla parte tua, magari anche tu hai una buona antenna, capito? E tu dai, va bene. Sappi che altri macchini vai, va. E altri macchini vai, cioè, allora, la Megane che ho comprato ce l'ho sempre. Prima era rossa, era con le fiamme, cerchi e anche zitti. Poi mi è salito un prezzo perché aveva fatto un negozietto, si chiamava Cobra Tuning 77. E ce l'avevo 10 anni con i gusti, visto che hanno male spaccato la fine. E poi mi sono preso una Fiat 127 che l'avevo scambiata con una Vespessa che avevo. Ne avevo due Vespesse special, e una era R però. E quello lì aveva voluto la R che era celestina con i bilancini, motore 130 pulini, ma mi sta pulini, 19. E gli ho detto, se vuoi fare lo scambio mi dici quale Vespa vuoi. E lui mi ha detto, va bene, allora mi saliamo a Sassari, a garage. Mi ha detto, ne ho due 127, una color crema e una bianca. Una è special, l'altra è primo tipo. La special aveva la gomma nei paraurti cromati, quella primo tipo no, perché aveva il portellone grande dietro. E allora mi ho preso quella col portellone grande. Mi ha pagato un passaggio e tutto, che era 100.000 lire, mi pare, 100 euro. E niente, ero proprio contento io. Poi l'ho tutta quanta smontata, l'ho fatta bianca del colore dell'appunto, quel bianco bello. E gli ho messo i cerchi dell'epoca, quelli maestrini, tipo quelli dei modellini della Burago, erano i cerchi. E niente, il motore del 112 c'era completo con la marmitta 1000 miglia. Non consumava nulla, amica. Solo gira strattabio a 2000 anni in presa a Chiluca, allora consumava. Ma se no, con 10 euro, tutta canta la chiesa gli davo dai sardinoghi io. E poi la parcheggiavi dove veniva bene. Troppo dove era, e a mezzo di vista un po' con chissà dove. Anche io l'ho avuto 127, ne ho avuto due, ho avuto con la benzina e anche il diesel. Il diesel è bello, quello che rimane fitta, 127 Diesel c'aveva un nome, comunque era quella che rimaneva invece con le griglie. Quando sa bella, era un trattore, quando camminavi pagava il trattore. a chi mi pare erano 1.300 quelle diesel lì, i primi motori diesel 1.300 Fiat. La vita bu. Però per la forza, la forza ero fidanzato, allora stavo salendo da Castelsardo e ho fatto i pettini e vedo questi due ragazzi, un ragazzo e una ragazza con le mani che mi facevano cenno, mi fermavano. E io ho detto alla mia ragazza, la faccio, ci fermiamo, e fermati, se hanno bisogno di qualche cosa. Mi sono fermato e cosa era successo? Che questi qui dice che sono andati a fare una passeggiata di spiaggia, hanno parcheggiato la macchina, erano di Alghero, non eravamo qui qua. Hanno parcheggiato la macchina e dice che gli si è pantalata, sono andato di chi vede la baciata, era in crociera, chi si, non sono riusciti a uscire, hanno messo tappettini, ritrovati, ho preso 127. Dalla strada c'aveva un cavo lungo, l'ho attaccato, in 5 minuti l'ho tutti fuori. Sì, no, tanto trattiamo una rete alla via che sono di luci. No, comunque da una parte già era bello, secondo me dovevi andare, da un'altra parte no, che era, come hai detto tu, fare in cose, mette in trebbia. Avvatica. Mi stavo leggendo su internet adesso, praticamente sequestrata petroliera nell'Atlantico dopo 2 settimane di inseguimento. Praticamente gli Stati Uniti hanno preso questa petroliera che aveva petrolio di quello di prima categoria, che era dal Venezuela, stava andando in Russia. Mi sa che questo Trump sta esagerando adesso, mamma mia. Sta svegliando qualche dorme, deve stare anche attento lui, perché i russi non sono basiti. Praticamente quello che Milano è proprio il petrolio, sicuramente così. Esatto, siccome ci sono le sanzioni per la Russia, ha capito, perché è in guerra con l'Ucraina, quindi questo petrolio era destinato alla Russia. Niente, la Russia ne produce petrolio, ma non di questo denso che ha il Venezuela, che serve per produrre la benzina, capito? Invece con quello russo ci fai altri carburanti, tipo il diesel o altre cose, ma non la benzina. È diversa qualità, la qualità più pregiata. Sì, l'avevo letto su internet anch'io, l'ho letto poco fa. Stanno girando e rigirando questa guerra, invece che praticamente, non so se l'è notato, invece di arrivare alla pace, altre nazioni stanno combattendo, ma è un casino, guarda, siamo alla fine del mondo. Speriamo bene, speriamo che finiscano sto palla di conflitti, perché per colpa di queste guerre poi sta aumentando tutto, non solo gasolio e benzina, ma sta aumentando tutto, gas, certi generi alimentari, questo Trump che ha messo i dazi, insomma. Chissà dove arriveremo. Oh, comunque tutti i presidenti americani sono stati sempre esaltati in queste cose, sempre cercavano guerra da tutte le parti, sono stati sempre così. E poi ho letto che in Sardegna è stato vinto il 4° premio della Lotteria Nazionale, 1.500.000, già forse nel Nuorese, in quella zona lì, forse a Ierpu se non sbaglio. Dove fare il vino buono? Sì, sì, quelle zone lì, un 1.500.000, comprato in un bar tabacchi, capito? Vabbè, meglio per lui. Speriamo sia una persona povera che ne abbia bisogno. Infatti, speriamo che sia qualcuno davvero che ne abbia bisogno e li utilizzi bene, capito, soprattutto. Anche in caso che non metti tutti i cittadini, esci di testa, specie se sei una persona che non ne ha mai avuto, quando si ritrova in mano, uia. Non credo io che impazzirei, però già cambierei vita, sicuramente non andrei più a lavorare. Vabbè, allora ti sappi, tu cosa faresti vincendo una cifra così? E io cosa fai? Avevo comprato una casa in mare, non proprio in mare, ma quasi. Comunque lì mi ha visto a tornare e poi, non lo so, magari qualche macchinetta bella, che da voi manco macchinetta mi interessa. Mi ha più interessato, cosa ne so, non lo so, comunque non lo so, perché poi quando c'hai tutti questi studi non sai mai cosa va più. Tu muori un problema di questi pinigli. E vabbè, si possono fare opere di beneficenza a chi ne ha bisogno. Quando sono troppi, cosa ne fai? Intanto li lasci qua pure. Ma opera di beneficenza non ha più fatta nessuna, che a me non mi ha mai aiutato nessuno, andiamo in Itubavisi. Allora Sassari uno aveva vinto, sai cosa ha fatto? È andato nelle zone più povere, al monte e coso, e nella cassetta delle poste gli ha buttati i soldi dentro a questa persona. E mi sembra che l'avevo sentita una storia così, di Natale era o di Capodanno. E boh, quello non me lo ricordo, mi ricordo solo che ha fatto una grossa vincita e li ha distribuiti a tutte le persone bisognose. Andava nella cassetta delle poste, muli, muli, ai lì. Sì, ma così va bene a chi magari sai il fatto di quelle persone e ti va di biasì. Ma dell'altro tipo a dalla risuoia, a dalla ghida, a dalla ghidara, ma che cazzo mi hanno la ghida paese? E vabbè. La prima cosa la salute, io guarda, avrei spesi per curarti la schiena, ho fatto fare un'operazione incontinente e lì magari lo sanno fare meglio, perché un amico mio se l'ha fatta lì ed è al 100%. Già lo so Gianni, già lo so, ma il problema lo sai cos'è? Che quando sono andato io, cazzi da tipo dal mio ospedale hanno chiamato perché volevano sapere dove dovevo andare, no? E io non gliene dovevo dire, hanno chiamato, prima mi hanno buscato da corte, da poi per la cosa del Covid non si poteva fare niente e praticamente si sono passati 5 anni dai Sassuoli, se no dovevo andare io a Bologna, c'era il professor Lulli e mi doveva sistemare lui, invece poi gli hanno detto che c'era il Covid, che l'impianto che mi avevano fatto non aveva retto perché le ossa mie erano deboli, e hanno detto un sacco di gattardi, allora Guido si è attenuto a quello che gli hanno detto e allora mi ha detto che provvisoriamente non si poteva fare niente perché medici non ce n'era, così mi ha detto. E a Bologna sono bravi, in ortopedia sono bravi, ma anche in altre cose, perché l'ex suocero di mia figlia l'avevano operato al fegato, gli hanno fatto il trapianto e adesso sta bene. Sì, lo so, ma io ho conosciuto un bel di gente che è andata e ha fatto delle cose e dice che sono alla grande. Il problema è che quando ci sono di mezzo altri medici vuol rimanere tutti compresa e allora io mi metto sulla volta fuori. Il problema è che i medici di qua non vogliono che tu vada fuori, capito? Praticamente quando io dovevo far vedere mio figlio perché aveva un problema allo sfintere, l'abbiamo portato a Bologna. E poi anche a Roma, al Bambino Gesù, l'abbiamo fatto vedere a diversi medici. E vabbè, c'è un bello sentire che praticamente lui sicuramente giocando al computer e cose del genere veniva a fare la pipì e non ci andava per finire il gioco. E ha rovinato lo sentire, praticamente rimaneva aperto, non si chiudeva, quindi perdeva, capito? E poi l'hanno dovuto operare, gli hanno fatto l'operazione praticamente con una sonda, l'hanno operato e gli hanno messo a posto. Vedi, vedi, a chi si abbiano rubato i suoi, no, invece chissà cosa ha detto l'anelito. Poi lasciami lì. Noi qua non ci siamo fidati, abbiamo portato fuori. hai fatto bene, Giacchi, non che sono una massa di delinquenti, non che ne fidare, sono tutti quanti ladri e puttane, so. Gioia, e cosa vuoi fare? Non sono bravi qua. Ci sono anche quelli bravi, perché a Roma ci hanno detto come mai l'avete portato qua quando ci sono medici bravi anche a Sassari. E io gli abbiamo detto perché noi volevamo sentire parlare di più medici. Hai fatto bene, già, hai fatto bene, fino a che sono una massa di, guarda, una massa di bugigini. E addirittura siamo stati spesati di viaggio e anche ricovero per l'ospedale per il bambino, capito? Ci hanno restituito tutto dalla regione. Sì, sì, no, ma lo gioco, è che sono i nobili che sono delinquenti, seccano tutti i musici, non pure fare nulla. Vabbè raga, io vi saluto, là, che Italia non mi sta chiamando e devo scendere giù. Grazie per il QSO, ciao Carlo, ci sentiamo, dai. Qualche giorno ci vediamo, dai. Va benissimo Gianni, l'ho sentito il cane tuo chiamandoti. Benemeda, ciao, salutami Sanpei, va bene, alle prossime, ciao, buonasera a tutti. Ciao, ciao Carlo, Sanpei ti saluta Carlo. Gappa, ricambio, ma lui a me mi sente? Sì, ti sente, basso ma ti sente. Gappa, ma che antenna c'ha Carlo? Un antennino, diciamo, provvisorio, perché c'ha una bella antenna Carlo, però ancora non l'ha piazzata sul tetto, capito? L'antenna che c'ha, va molto... Ho capito, forse paghi su di noi, intendo io. Va bene, dai, già avremo modo di, dai, si abbiassa l'intendito. Andare, porta a Tyson già, che se no, cioè, tutti dopo gli animali, e ti fai due risate anche, va come sta brincando che andi a fuga. Sì, quando capisce che è sopportato, che mi vede mettendo giù le scarpe, comincia a brincare a tanti, va, augurri, fa impazzito. Io avevo un boxer, 12 anni ce l'avevo. Ma con te sono già 11 anni quasi. Poi però, lo sai cosa è successo? Me l'hanno avvelenato un bastardo di carriera che aveva un figlio minore e siccome il mio boxer giocava nel cortile gli avevo messo un copertone in un coso e lui si appendeva e si aveva fatto una bitorra, ma tanto era dove? Era bravaccio, tutta zia sempre con nonno, giocando con i bizzini. Senti, Sumacco, la vigna di Tugirugani era amaro, l'ha fatto due polpetti che se ne era tutto tanto incentrato. Ma quando l'avevamo portato al veterinario non ce l'ha fatta più, né a fare la panna grazia e niente. Ecco la vietà dei polpetti. Il boxer c'ha un carattere veramente dolce, giochi e giocherellone, bravo con tutti. Sì, era un amore, gatta, un amore, era da quella che è cresciuta minore giù con noi, la zia con nonno, una virgine, un buccino. Ti ha dato una lettera, a Giovanni si mangiava un buccino a chi pensava che lì era a tenere i mani, compreso, e il nonno ha detto, no, oh, stai calmo, zitto. E allora si è calmato, se non l'erai a partenza. Sono così, sono molto territoriali. Vabbè, là, ti saluto, ci sentiamo già. Ehi, gappa, già, mi ha fatto piacere, magari ci sentiamo alle prossime, là. Andavè. Ciao Gianni, buon proseguimento di serata. Salutami pure i canarini che sentite, ciao. Ehi, senti, sto buco pure i gappa i canarini, come ti è messo?